parte della ricerca, cioè quella che concerne lo studio dell'università italiana in età liberale. E io darei immediatamente di nuovo la parola, soprattutto ai nuovi che sono arrivati qui, perché ci possano dire ancora qualcosa di più del loro lavoro. In particolare vorrei dare la parola alla Polenghi, alla quale avevamo chiesto appunto di farci una breve sintesi di questo lavoro che è appena concluso sulla la politica universitaria nell'età della destra. E poi vorrei chiedere però alla Polenghi e anche agli altri di specificare meglio in che direzione vedono la loro possibilità di collaborare a questo gruppo, in particolare quale potrebbero, se possono, sono in grado di individuare meglio fin da ora un oggetto particolare sul quale poi possano concentrare il loro lavoro e da far confluire in un seminario, in una delle prossime tappe di questa ricerca. Di questa ricerca CNR per la parte relativa all'università, della quale un momento di verifica sarà il convegno di Siena del 91, di cui parleremo domani, ma che prevede altri momenti interni a questo gruppo più informali. Infatti si tratta di individuare appunto eventuali ulteriori momenti di riflessione, in particolare in rapporto alla storia delle discipline, quindi varie specificazioni disciplinari nei vari campi, in rapporto a eventuali studi su singole sedi universitarie e in rapporto a singoli settori specifici, insomma, in rapporto a singole formazioni di singole figure professionali o singoli settori, insomma, disciplinari. Io darei subito la parola alla Polenghi e poi agli altri. Ma io posso cercare brevemente di dire come è strutturato questo lavoro che ho appena finito di scrivere. Riguarda appunto la politica universitaria nell'età della destra. Il tema è vastissimo, ovviamente, anche perché non esistono, diciamo, testi cui riferirsi, no? Esiste qualcosa sui singoli periodi, sui singoli ministeri, eccetera, ma un testo globale non c'è. Io ho cercato di procedere in questo modo, di vedere la storia dell'università anzitutto a livello istituzionale, quindi a livello di leggi, di progetti di legge, quindi anche di mancata attuazione, no? Perché ogni ministro più o meno propose il suo progetto e non fu attuato, però quindi il perché di questa mancata attuazione, di questa mancata riforma. A livello poi di regolamenti, naturalmente, perché i regolamenti modificarono e a volte anche pesantemente la legge Casati. Quindi questa, diciamo, come primo binario è la ricostruzione dell'iter legislativo, se vogliamo, per cui sono partita dalla legislazione piemontese obbligatoriamente, quindi Boncompagni, Cibrario, Lanza, la Casati, per arrivare appunto fino alla caduta della destra. Perché proprio tutta una serie di problemi successivi trovano le radici, a mio parere, proprio nella politica piemontese. Un esempio tipico può essere la questione della chiusura dell'Università di Sassari. No, questa è un'università minore, si decide la chiusura con legge Casati, la chiusura invece viene bloccata dal Parlamento e tutta una serie di tematiche che torneranno negli anni successivi si trovano già qui. E poi ho fermato l'attenzione su alcuni punti fondamentali, tipo l'autonomia, la questione dell'autonomia universitaria, la questione dello status del professore, quindi della libertà del professore, libertà anche politica. Quindi ho visto in particolare i due processi, il processo a Ferrara, in età cavuriana, e il processo Carducci, Ceneri, Piazza. Per vedere poi anche così, il ruolo del professore nei confronti della scienza e della politica, un tema importantissimo per via del periodo, no? Soprattutto età risorgimentale, ineludibile, è questo collegamento strettissimo tra scienza e politica, in particolare per le discipline umanistiche, ma non solo, insomma, il fatto che i grandi grandi scienziati, si diceva prima Cannizzaro, no? Matteucci, eccetera, siano patrioti, siano professori universitari e siano senatori o deputati o addirittura ministri, no? È estremamente importante. E permette proprio a questo proposito, di effettuare un collegamento con il modello europeo, in particolare con quello tedesco. E io ho cercato in un paragrafo proprio di collocare l'università italiana sullo sfondo dell'università europea, con tutte le differenze che esistevano. E si parlava prima del modello tedesco, ecco, da quello che io ho potuto vedere, mentre nell'età cavourriana i modelli erano ancora così, quello belga, quello francese, quello tedesco, però ancora sullo stesso piano, se vogliamo. Cavour prediligeva quello belga, per esempio. Dopo l'unità emerge chiaramente quello tedesco, forse anche per l'influenza della scuola napoletana, degli hegeliani napoletani. Però è interessante che questo modello in realtà gioca su un equivoco, cioè non è assunto esattamente. Secondo un duplice equivoco. Primo equivoco è che in realtà quando gli italiani parlavano del modello tedesco negli anni 60, 70, eccetera, si riferivano ancora al modello humboldtiano di università, mentre in realtà la Germania della seconda metà dell'Ottocento andava verso una specializzazione del sapere. E di questo gli italiani non si rendono conto, quindi Bonghi, eccetera, quando si rifanno alla Germania, dicono: ah, questo modello in cui la facoltà di lettere è la facoltà centrale. No? E quindi, per esempio, molti propongono che tutti gli studenti della facoltà medica, della facoltà scientifica, eccetera, sostengano esami di lettere, di filosofia, di storia, eccetera, non umanistici. Quindi in realtà si rifanno ad un modello che è come minimo vecchio di qualche decennio, no? Non solo, ma poi c'è anche un'altra questione un po' ambigua, ossia si rifanno a questo modello affermando taluni che in realtà, anche per questioni diciamo nazionalistiche, no? In realtà il modello tedesco era italiano, italiano perché ritornava al modello medievale, no? Italiano. Quindi si trattava di recuperare le proprie origini, le proprie tradizioni, eccetera. Però poi quando si andava a definire un po' meglio che cosa si intendeva per modello tedesco, ecco qua le cose non erano proprio uguali per tutti, perché alcuni dicevano: beh, il modello tedesco funziona molto bene perché produce degli ottimi funzionari. No? Quindi vedevano l'università come un'università di Stato. Viceversa, altri equivocavano su questo e dicevano: no, l'università tedesca funziona molto bene perché garantisce la massima libertà, la massima autonomia ai professori. Quindi, in sostanza, anche qua il modello humboldtiano non viene assunto nella sua interezza dagli italiani, che a volte propendono per il versante di autonomia interna, a volte invece per quello statalista, noi potremmo dire. Quindi non c'è una chiarezza da parte degli italiani nell'assumere questo modello, no? Che viene assunto dagli uni in una prospettiva e dagli altri in un'altra. Una cosa comunque sicura, che senz'altro c'è sempre presente la Germania, per motivi poi anche proprio scientifici, chiaramente. Per esempio Cannizzaro dice riguardo alla Germania: noi dobbiamo mandare tutti i nostri studenti in Germania perché là sanno la chimica, qui non la sappiamo, eccetera. Un altro dato che emerge dal lavoro circa il problema di accentramento e decentramento. Quindi il problema anche, parliamo di riduzione delle sedi universitarie, che è un problema drammatico e sul quale si gioca poi la politica ministeriale di parecchie persone, da Matteucci in poi. Ecco, questo problema è stato esaminato molto spesso proprio come storia delle idee e basta. Quindi si è detto: beh, qua c'è una grossa contraddizione, indubbiamente, perché una classe dirigente liberale, quindi insomma come formazione più vicino a un modello di Tocqueville, eccetera, quindi decentramento, di fatto poi attua una legge che al decentramento lascia poco spazio e comunque vuole sopprimere le sedi minori, eccetera. Però se noi andiamo a vedere le condizioni, per quel poco che io ho potuto vedere, no? Effettive dell'università del tempo, erano assolutamente catastrofiche. cioè ci sono descrizioni di condizioni di laboratorio, di chimica, di fisica, degli ospedali, eccetera, e le condizioni biblioteche che sono tragiche, e quindi al Ministero continuano a pervenire richieste di fondi per costruire, so, fisiologia, per esempio, i gabinetti di fisiologia erano interamente da costruire, eccetera. Anatomia patologica, mancavano i soldi, detto molto brutalmente. Quindi è anche più comprensibile in quest'ottica, in questa situazione, l'esigenza centratrice, specie da parte di ministri come Matteucci, che erano fisici. E quindi avevano ben presente, tra l'altro, la situazione europea, conoscevano molto bene la situazione inglese, tedesca, francese. E quindi a questo punto, data una certa politica del tesoro, una certa politica finanziaria che il governo seguiva, dati i fondi disponibili, disperderli su 20 fondi, su 20 atenei, significava bloccare la scienza. Quindi, avendo presente questo, si può capire meglio questa contraddizione, tanto più che anche uomini che erano dal punto di vista teorico favorevoli al decentramento, tipo Bonghi, per esempio, che nei primi anni è che si volge contro Matteucci, eccetera, poi in realtà al momento dei fatti cerca, non so, anche in sede di Consiglio Superiore, in favore di progetti che vedono una drastica riduzione delle sedi. Il Consiglio Superiore si pronuncia più volte in questo senso, proprio per la riduzione, elencando, proprio chiarendo qual era la situazione degli Atenei. Quindi direi che questo è da tenere presente, insomma, la situazione di oggettivo svantaggio nel quale partiva l'Italia, non tutta l'Italia, ma in particolare certe sedi, no? Per cui, se, non so, poniamo Torino, Pavia, Padova, Bologna, tutto sommato era una situazione, diciamo, discreta, in altre università la situazione era catastrofica. Un altro punto, ecco, da tenere presente allora è il collegamento, come dicevo prima, tra politica e scienza. Quindi il ruolo, qua ci serve un lavoro enorme da fare, come si diceva prima, sulle singole personalità, su questi singoli uomini che erano uomini politici e uomini di scienza. Perché un esempio, figura emblematica, può essere De Sanctis, no? Come può essere adesso anche Cannizzaro, eccetera. E un dato però che emerge da quello che io ho potuto vedere è questo, che mentre prima dell'unità e negli anni immediatamente successivi c'è un grandissimo impegno politico in generale da parte degli scienziati, scienziati intendo sia nelle scienze positive che in quelle umane, quindi con un coinvolgimento anche proprio personale, a livello anche parlamentare, no? Che è indicativo, che distingue il caso italiano proprio da quello tedesco, no? Nel periodo successivo, negli anni 70, eccetera, questo fatto, che è a mio parere positivo, viene invece giudicato negativamente dall'opinione pubblica. Cioè, negli anni 70 si comincia a dire: ma il professore, l'universitario, che però fa politica, che però è in Parlamento, o che è ministro, eccetera, non fa il suo dovere, sostanzialmente. Priva gli studenti del suo insegnamento, quindi, insomma, il professore se ne stia a casa sua e non sieda in Parlamento. Quindi c'è una presa di distanza che è abbastanza importante, che è abbastanza indicativa di un diverso modo di concepire la scienza. Voglio dire, insomma, negli anni 50-60 il nesso scienza-politica è molto chiaro, direi anche immediatamente sentito, anche dagli studenti, eccetera. Dopo no, cioè si tende a dire, bene, lo scienziato stia nel suo laboratorio, insomma. Anche se di fatto in Italia questo non succede, cioè c'è un effettivo coinvolgimento, no? Continua, però da parte di molti politici si tende a dire, bene, legiferiamo noi sull'università e non voi, no? Questo si riflette anche per esempio sugli studenti, per cui le associazioni studentesche prima dell'unità naturalmente sono associazioni liberali viste sotto un certo senso in un'ottica positiva, l'esempio tipico quello del 48, Curtatone, Montanare, eccetera. Dopo l'unità queste associazioni sono associazioni di mazziniani, non ancora di socialisti, però quel poco che ho potuto trovare, che è molto poco peraltro, però insomma sono di mazziniani, democratici, eccetera, e quindi naturalmente sono rifiutate. Quindi c'è una progressiva chiusura, no, a livello di classe dirigente, diciamo a livello ministeriale. Poi appunto io ho cercato di seguire la politica ministeriale dei singoli ministri e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, vedendo in sostanza come fossero, come questi diversi problemi venissero affrontati. Direi che il quadro generale che emerge, per non farvi qua, ovviamente se benito non ho la storia dei singoli ministri, delle loro diversità, eccetera, il quadro che emerge alla fine è questo, che sostanzialmente nel quindicennio insomma, dell'età della destra si è fatto molto per quanto riguarda l'università, molto più di quanto una certa storiografia magari non dica, perché bene o male il sistema dell'organizzazione scientifica è stato razionalizzato, sin dal, se vogliamo, anche il modo stesso di, banale se vogliamo, però di condurre gli esami, di fare gli esami, di dare certe materie, eccetera. È stato razionalizzato però ad un prezzo, nel senso che imponendo un certo ordine a tutti, no? Un certo regolamento uguale per tutti, cosa è successo? Che ciò ha obbligato le sedi minori, le sedi più piccole, nelle università secondarie, come erano chiamate allora, no? A uniformarsi perlomeno ad un minimo, no? Ad un certo standard, pena la morte. Devono per forza farlo. D'altra parte, però, pensiamo a quello, per esempio, che significava per facoltà scientifiche, non so, facoltà medica, il fatto di non avere determinati insegnamenti, insomma, di anatomia, di fisiologia, eccetera, mentre qui almeno un minimo doveva esserci. Peraltro questo ha svantaggiato le sedi più forti. Poniamo una Padova, Torino, eccetera, perché non hanno avuto la possibilità di differenziare l'insegnamento, eccetto che nei corsi degli insegnanti privati, nei corsi liberi, che peraltro pare che nell'età della destra non fossero molti, e cioè che anche a Napoli ci fosse un certo esaurimento, no? Riprenderanno poi negli anni 80, però negli anni 70 non ce n'erano molti, anche perché lo studente comunque era tenuto a seguire un certo piano di studi, e quindi se voleva seguire un insegnamento libero non gli giovava più che tanto, insomma. A questo proposito si inserisce la questione dell'università. Ecco, io ho visto un paio di università, un po' in maniera più precisa, Napoli e Roma, per il valore, diciamo, di modello che avevano. Napoli con la riforma De Sanctis. E Napoli anche qua è indicativo, perché Napoli era indubbiamente, sia per numero di studenti, no? Sia per i professori che aveva, considerata la prima università d'Italia. E tuttavia anche qua c'è un atteggiamento ambiguo da parte della classe dirigente, che non capisce la situazione di Napoli. Cioè ci sono per esempio i prefetti napoletani, cioè di Napoli, che non erano napoletani naturalmente, che scrivono al ministro dicendo: ma qua è un caos totale, questi professori, magari professori del calibro di Spaventa, di Tari, di De Sanctis, eccetera. Il prefetto, insomma, non era un esperto di filosofia, eccetera, cioè, ma qua è nel caos, questi professori non si capisce, non fanno lezione, il disordine impera e regna. In realtà, da quello che ho visto, la questione era diversa, cioè c'era un caos amministrativo notevolissimo che portò l'università ad essere posta sotto inchiesta con Bonghi, cioè nel senso che anche persone che non avevano, venivano immatricolate, persone senza licenza liceale, eccetera, eccetera. Invece a livello di professori c'era un corpo docente ottimo. E quindi cosa è successo? Che reinserire l'Università di Napoli nella Casati è stato negativo per quanto riguardava l'autonomia, no? La libertà di insegnamento, eccetera. Perché evidentemente l'Università di Napoli da quel punto di vista funzionava, visto che produceva ottimi studiosi. Però è stato imposto dicendo: sì, però qua c'è il caos totale, caos amministrativo, eccetera. Quindi anche qua si è raggiunta l'uniformità, però a un certo prezzo, no? E infine l'Università di Roma l'ho vista in particolare proprio nel 70, 71, 72, perché è stato il momento nel quale si è detto: bene, qui possiamo ricostruire ex novo, appunto avendo presente naturalmente come modello quello della Germania, quindi con seminari, quindi dando particolare attenzione proprio alla chimica, alla fisiologia, alla fisica, eccetera. Poteva essere diciamo una grande occasione, no? Un'università nuova. Quindi anche qua come si collocava Roma in questo contesto. E anche in questo caso, insomma, molti dicevano: beh, però non centralizziamo tutto a Roma, altrimenti penalizziamo le altre sedi, mentre altri avrebbero veramente voluto fare di Roma un'altra Berlino. insomma, un po' l'idea di sella, ecco, come poi aveva già visto Chabot. E di fatto anche qui in realtà non si seguì né l'una né l'altra cosa, perché anche Roma sì, fu privilegiata indubbiamente, anche proprio come nome di professori, come fondi, perché a Roma arrivano tantissimi fondi, no? Però non si riesce a creare una struttura interna nuova, cioè, viene inserita nella Casati, voglio dire, quindi non c'è un sistema, poniamo, di libera docenza, di libertà dello studente nel curriculum, eccetera, no? Questo, diciamo, come quadro globale. La ricerca, questa è appunto per ora più o meno, insomma, terminata. A me interesserebbe proseguirla, nel vedere appunto nell'età della sinistra, e quindi arrivare ovviamente ai progetti Bacelli, perché questa è tutta una, diciamo, l'antefatto, se vogliamo, per vedere come si arriva poi agli anni Ottanta, quindi alla grande discussione sull'autonomia universitaria, tenendo presente proprio un sistema metodologico, in quanto dicevo prima, cioè che in effetti occorre vedere come fossero le condizioni dell'università di fatto, prima di dare un giudizio sul problema autonomia, no, o non autonomia. E poi ovviamente dato che io risiedo a Milano, come diciamo sia interesse mio sia possibilità proprio di tempo, è chiaro che anche come competenza mia personale, perché io vengo da filosofia, la facoltà che io posso indagare meglio è quella umanistica, no? Quella letteraria filosofica, quindi nel caso di Milano l'Accademia scientifico-letteraria, comunque in generale la facoltà letteraria. Ilaria, chi? Ma appunto, adesso io posso dirvi come riguardo ai due oggetti di ricerca di cui mi occupo, quali possono essere i temi che forse a voi possono interessare di più e che potrei in qualche modo privilegiare così nelle mie prossime ricerche. Ecco, forse in questo momento voi potreste essere più interessati a un mio approfondimento sul Politecnico di Torino. E probabilmente potrebbe essere interessante studiare i problemi dei rapporti, da un lato tra l'università, chiamiamola la scuola di applicazione, il museo industriale, perché appunto, come avevo detto stamattina, il Politecnico di Torino nasce dall'unione, dalla fusione, chiamiamolo come volete, tra queste due scuole. Quindi rapporti tra università, scuola di applicazione e museo industriale, che possono essere letti come i rapporti tra la scienza pura e la scienza applicata. Una cosa abbastanza interessante è il fatto che nel momento in cui, appunto, con la legge Casati si decide di fondare le scuole di applicazione, il museo industriale è un'altra cosa ancora, viene fondato successivamente, alcuni anni, un paio d'anni dopo, da De Vincenzi, e ha tutta una sua storia sua. Comunque, quando si fonda la scuola di applicazione, a livello proprio disciplinare, e qui mi ricollego al discorso che aveva fatto qualcuno sulla nascita delle nuove discipline, delle autonomie disciplinari, proprio si creano delle divisioni disciplinari, cioè alcune materie vengono in qualche modo espulse dall'università e entrano nella scuola di applicazione, oppure cambiano nome. Per esempio, abbiamo due chimiche, nella vecchia università di Torino c'era la sola chimica docimastica, che era la chimica applicata alle costruzioni. Ora fanno due chimiche, la chimica pura, che si insegna in università, e la chimica docimastica, che invece è pensata per gli ingegneri e si insegna alla scuola di applicazione. Cioè c'è immediatamente una concezione che appunto nella scuola di applicazione si debba insegnare la scienza applicata e non solo, ma una scienza pensata a livello professionalizzante. Ecco, la scienza quanto serve per preparare dei professionisti. Ed è importante vedere come invece la scuola di applicazione e anche il museo industriale cercherà poi di invece di riacquistare invece una funzione scientifica in senso puro. Naturalmente tutte queste parole sono da pensare un po' tra virgolette, no? Ecco, per cui cercheranno di avere dei laboratori di ricerca, fare ricerca, pubblicazioni scientifiche, ed è una cosa abbastanza paradossale il fatto che uno dei grossi scienziati, che pure ha una preparazione più tecnologica, se vogliamo, comunque uno dei grossi scienziati dell'Ottocento è Galileo Ferraris, che nasce giusto appunto nel Museo Industriale, cioè si laurea in ingegneria, ma poi immediatamente andrà a lavorare al Museo Industriale, dove c'era la sua cattedra di fisica tecnica. Ecco, quindi direi che forse questo tema dei rapporti tra le tre istituzioni, pensati però come, come rapporti anche conflitti tra scienza pura e scienza applicata, potrebbe essere interessante. Anche perché poi si vedono queste cose così abbastanza curiose, ma invece probabilmente anche tragiche per chi le viveva, cioè il fatto che tutti questi docenti avevano formalmente lo status di professore universitario, però erano i docenti che facevano molto più fatica a far carriera, cioè non riuscivano mai a diventare ordinari, restavano sempre incaricati, perdevano i concorsi, cioè ci sono tutta una serie di problemi anche di questo tipo, cioè un prestigio poi di fatto molto minore. Ecco, l'altro problema che potrei affrontare è quello dei laureati, fortunatamente esiste un annuario di tutti i laureati del Politecnico di Torino dal 1860 fino al 1914, con delle brevi carriere. Poi io nel corso degli anni ho abbastanza rimpolpato queste carriere, cioè, tutti i laureati del Politecnico di Torino sono schedati appunto per 50 anni e almeno per due terzi di essi c'è anche la carriera professionale. Ecco, la mia intenzione sarebbe di arrivare, già in parte lo dovrei fare per questo lavoro di cui parlavo questa mattina per l'elettrotecnica, cioè studiare le carriere dei laureati nel settore elettrotecnico, però la mia intenzione sarebbe di arrivare a un lavoro a tappeto, cioè capire dove sono andati questi ingegneri e capire qual è stato il loro apporto all'industrializzazione fondamentalmente, perché poi è quello che interessa. Ecco, per quanto riguarda il secondo mio ambito di interesse, cioè l'Università di Pavia, vi dicevo che io sono adesso particolarmente interessata alla fase tra 7 e 800, cioè il problema della fisica e della matematica per via tra 7 e 800. Io naturalmente non ho delle competenze di storia interna della fisica né di storia interna della matematica, cioè in questo gruppo di lavoro che appunto comprende il professor Bevilacqua, Peppino Giuliani e altre persone, io mi occupo delle istituzioni scientifiche, altri si occupano più di una storia interna. Quindi ora siamo veramente impegnati su questo problema del perché c'è stata questa mancata matematizzazione della fisica, tra l'altro tenendo conto del fatto che a Pavia ci sono stati francesi per circa una ventina d'anni, quindi anche qui un problema di certamente non circolazione delle idee, ma una fortissima circolazione delle idee, Volta che va a Parigi, così come Monge viene a Pavia, per dire. Però nonostante questo, certe innovazioni teoriche non passano, e quindi cercare di capire il perché. Fa parte delle nostre progetti di ricerca andare avanti su questo discorso, quindi studiare l'Istituto di Fisica, che poi diventerà la facoltà di matematica e poi successivamente la facoltà di scienze per quanto riguarda la fisica, anche per il resto dell'Ottocento, arrivando fino alla fine del secolo. Quindi certamente poter riprendere questi argomenti anche per il caso pavese, anche i rapporti tra scienze pure, scienze applicate, cose del genere, anche per il caso pavese sarà possibile.